dall'Egitto. Mosè disse a Dio: chi sono io perché vada dal Faraone e faccia uscire i figli di Israele dall'Egitto? Rispose: io sarò con te, e questo è il segno che io ti ho inviato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Mosè disse a Dio: ecco, io vado dai figli di Israele e dico a loro: il Dio dei vostri padri mi ha inviato a voi. Mi diranno: qual è il suo nome? Che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. E aggiunse: così dirai ai figli di Israele: io sono mi ha inviato da voi. Dio disse ancora a Mosè: così dirai ai figli di Israele: il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe, mi ha inviato a voi. Questo è il mio nome per sempre, e questo il mio ricordo di generazione in generazione. Va, riunisci gli anziani di Israele e di loro: è apparso il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, dicendo: io vi ho visitato e ho visto quello che vi è stato fatto in Egitto, e ho detto: vi faccio salire dall'oppressione dell'Egitto alla terra del Cananeo, dell'Ittita, dell'Amorreo, del Perizzita, dell'Eveo, del Gebuseo, alla terra dove scorre latte e miele. Ascolteranno la tua voce, e tu con gli anziani di Israele andrai dal re d'Egitto e gli direte: il Signore, Dio degli ebrei, ci è venuto incontro, ed ora lasciaci andare per il cammino di 3 giorni nel deserto, e sacrificheremo al Signore, nostro Dio. Io so che il re d'Egitto non vi farà andare se non costretto da mano forte. Allora stenderò la mia mano e colpirò l'Egitto con ogni prodigio che farò in mezzo ad esso. Dopodiché vi manderà via. Concederò grazia a questo popolo agli occhi dell'Egitto, e quando ve ne andrete, non ve ne andrete vuoti. La donna chiederà alla sua vicina e a chi abita nella sua casa oggetti d'argento, oggetti d'oro e vesti. Ne ricoprirete i vostri figli e le vostre figlie, e spoglierete l'Egitto. Mosè rispose: e se non mi credono e non ascoltano la mia voce dicendo: non ti è apparso il Signore? Il Signore gli disse: che cos'hai in mano? Disse: un bastone. Disse: gettalo a terra. Lo gettò a terra e diventò un serpente, davanti a cui Mosè fuggì. Il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano e prendilo per la coda. Stese la sua mano e lo tenne stretto, e nella sua palma diventò un bastone. Questo perché credano che ti è apparso il Signore, Dio dei loro padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Il Signore gli disse ancora: metti la tua mano nel tuo seno. Mise la mano nel suo seno, la ritrasse, ed ecco che la sua mano era ricoperta di lebbra, bianca come neve. E disse: riponi la tua mano nel tuo seno. Rimise la sua mano nel suo seno, la ritrasse, ed ecco che era tornata come la sua carne. E se non ti crederanno e non ascolteranno la voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo. E se non crederanno neanche a questi 2 segni e non ascolteranno la tua voce, prenderai dell'acqua del fiume e la verserai sull'asciutto, e l'acqua che avrai preso dal fiume diventerà sangue sull'asciutto. Mosè disse al Signore: «Quanto a me, Signore, io non sono un parlatore, né da ieri, né da ieri l'altro, né da quando parli al tuo servo, poiché io sono pesante di bocca e di lingua». Il Signore gli disse: «Chi ha dato la bocca all'uomo? O chi lo rende muto o sordo, veggente o cieco? Non sono forse io, il Signore? E ora va. Io sarò con la tua bocca, ti istruirò su quello che dovrai dire». Mosè disse: «Ti prego, Signore, manda chiunque tu voglia mandare». L'ira del Signore si infiammò contro Mosè e disse: «Non c'è forse Aaron, tuo fratello, il Levita? So che è un buon parlatore, egli parlerà. Ed ecco, sta venendo incontro a te, ti vedrà e gioirà in cuor suo. Gli parlerai e metterai le parole nella sua bocca, ed io sarò con la tua bocca e con la sua bocca, e vi istruirò su quello che dovrete fare. Sarà lui a parlare per te e al popolo. Egli sarà per te la bocca e tu sarai per lui un Dio. E quanto a questo bastone, prendilo nella tua mano, con quello farai prodigi». Mosè se ne andò, tornò da dietro suo suocero e gli disse: «Lasciami andare e tornare dai miei fratelli che sono in Egitto per vedere se sono ancora vivi». Jetro disse a Mosè: «Va in pace». Il Signore disse a Mosè in Madian: «Va, torna in Egitto, perché sono morti tutti gli uomini che cercavano la tua vita». Mosè prese sua moglie e i suoi figli, li fece sedere su un asino e tornò in terra d'Egitto. E Mosè prese il bastone di Dio in mano sua. Il Signore disse a Mosè: «Nel ritornare in Egitto, vedi tutti i prodigi che ho messo in mano tua. Li farai davanti al Faraone, ma io renderò duro il suo cuore e non manderà via il popolo. E dirai al Faraone: così ha detto il Signore, Israele è il mio figlio primogenito. Ti avevo detto, manda mio figlio perché mi serva, e non hai voluto mandarlo via. Ecco, io faccio morire il tuo figlio primogenito». E avvenne che nel cammino, durante la sosta notturna, il Signore lo raggiunse e cercò di farlo morire. Zippora prese un silice e tagliò il prepuzio di suo figlio, toccò i suoi piedi e disse: «Mio sposo di sangue sei per me», e si ritirò da lui. Di qui il detto sposo di sangue per le circoncisioni. Il Signore disse ad Aronne: «Va incontro a Mosè nel deserto». Andò e lo raggiunse al monte di Dio e lo baciò. Mosè informò Aronne su tutte le parole del Signore che lo aveva inviato e su tutti i segni che gli aveva ordinato. Mosè ed Aronne partirono e riunirono tutti gli anziani dei figli di Israele. Aronne disse tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè e compì i segni agli occhi del popolo. Il popolo credette e comprese che il Signore aveva visitato i figli di Israele e aveva visto la loro miseria. E si inginocchiarono e adorarono. Dopo questo, Mosè ed Aronne vennero a dire al Faraone: «Così ha detto il Signore, Dio di Israele: lascia andare il mio popolo a celebrare una festa per me nel deserto». Il Faraone disse: «Chi è il Signore perché io ascolti la sua voce e lasci andare Israele? Non conosco il Signore, né lascio partire Israele». Dissero: «Il Dio degli Ebrei ci è venuto incontro. Lasciaci andare dunque per il cammino di 3 giorni nel deserto, per sacrificare al Signore, nostro Dio, perché non ci colpisca con la peste o la spada. Il re d'Egitto disse loro: «Perché, Mosè ed Aronne, volete distogliere il popolo dalle sue opere? Tornate alle vostre fatiche». Il faraone aggiunse: «Ecco, ora il popolo del paese è numeroso e voi volete farlo cessare dalle sue fatiche?» In quel giorno il faraone ordinò ai sorveglianti del popolo e agli scribi dicendo: «Non date più paglia al popolo per modellare mattoni come ieri e l'altro ieri. Vadano essi a raccogliere la paglia, ma imporrete loro la stessa quantità di mattoni che facevano ieri e l'altro ieri, senza diminuirla, poiché sono fannulloni. Per questo gridano dicendo: andiamo a sacrificare al nostro Dio. Si aggravi dunque il lavoro su questi uomini e lo facciano senza dar retta a parole di inganno». I sorveglianti del popolo e gli scribi uscirono e dissero al popolo: «Così ha detto il faraone: non vi diamo più paglia. Voi stessi andate, prendetevi la paglia dove la troverete, poiché non vi sarà nessuna riduzione del vostro lavoro». Allora il popolo si sparse in tutto il paese d'Egitto per raccogliere stoppia per la paglia. E i sorveglianti li molestavano dicendo: «Finite il vostro lavoro di ogni giorno come quando avevate la paglia». E furono colpiti gli scribi dei figli di Israele, posti su di loro dai sorveglianti del faraone, che dicevano: «Perché non avete terminato quanto vi è prescritto, di fare mattoni come l'altro ieri, così ieri e oggi?» Gli scribi dei figli di Israele vennero a protestare dal faraone dicendo: «Perché fai così ai tuoi servi? Non si dà più paglia ai tuoi servi e si dice: fateci dei mattoni. Ed ecco, i tuoi servi sono percossi e la colpa è del tuo popolo». Rispose: «Fannulloni siete, fannulloni. Per questo dite: andiamo a sacrificare al Signore. E ora andate a lavorare. Non vi sarà data paglia, ma consegnerete la stessa quantità di mattoni». Gli scribi dei figli di Israele si videro messi male quando fu loro detto: «Non diminuirete per nulla la produzione giornaliera di mattoni». E quando uscirono dal faraone, si incontrarono con Mosè ed Aronne, che stavano ad attenderli, e dissero loro: «Il Signore vi veda e giudichi. Voi ci avete resi odiosi agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi servi nel dare in mano a loro la spada per ucciderci». Mosè tornò dal Signore e disse: «Signore, perché fai del male a questo popolo? Perché dunque mi hai inviato? Da quando sono venuto dal faraone a parlare in tuo nome, egli ha fatto del male a questo popolo, e tu non liberi il tuo popolo». Il Signore disse a Mosè: «Ora vedrai che cosa farò al faraone, poiché grazie ad una mano forte li lascerà andare, grazie ad una mano forte li caccerà dalla sua terra». Dio disse a Mosè: «Io sono il Signore. Sono apparso ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe come Dio onnipotente, ma il mio nome di Signore non l'ho fatto loro conoscere. Ho anche stabilito la mia alleanza con loro per dare ad essi la terra di Canaan, la terra delle loro migrazioni, dove emigrarono. Anch'io ho udito il lamento dei figli di Israele che gli egiziani hanno resi schiavi e mi sono ricordato della mia alleanza. Perciò di ai figli di Israele: io sono il Signore. Vi farò uscire dalle fatiche dell'Egitto, vi libererò dalla loro servitù e vi riscatterò con braccio teso e con grandi castighi. Vi prenderò per me come popolo e sarò per voi Dio, e saprete che io sono il Signore, vostro Dio, che vi ha fatto uscire dalle fatiche d'Egitto. E vi condurrò alla terra per la quale ho alzato la mia mano, giurando di darla ad Abramo, Isacco e Giacobbe, e ve la darò in eredità, io, il Signore. Così Mosè parlò ai figli di Israele, ma essi non lo ascoltarono, perché ridotti all'estremo per il duro lavoro. Il Signore disse a Mosè: «Va a dire al Faraone, re d'Egitto, che mandi via i figli di Israele dal suo paese». Mosè disse davanti al Signore: «Ecco, i figli di Israele non mi hanno ascoltato. Come mi ascolterà il Faraone, io che sono impacciato a parlare?» Il Signore parlò a Mosè ed Aronne e li mandò dai figli di Israele e dal Faraone, re d'Egitto, perché facesse uscire i figli di Israele dalla terra d'Egitto. Questi sono i capi dei loro casati. Figli di Ruben, primogenito di Israele: Enoch, Pallu, Chezron e Carmi. Queste sono le famiglie di Ruben. Figli di Simeone: Jemuel, Yamin, Oad, Yakin, Socar e Saul, figlio della Cananea. Queste sono le famiglie di Simeone. Questi sono i nomi dei figli di Levi secondo le loro generazioni: Gerson, Keat e Merari. Gli anni della vita di Levi, 137. Figli di Gerson: Libni e Simei, secondo le loro famiglie. Figli di Keat: Amram, Isear, Hebron e Uziel. Gli anni della vita di Keat, 133. Figli di Merari: Macli e Musi. Queste sono le famiglie di Levi secondo le loro generazioni. Amram si prese in moglie Jochebed, sua zia, che gli partorì Aronne e Mosè. Gli anni della vita di Amram, 137. Figli di Isear: Core, Nefeg e Zicri. Figli di Uziel: Misael, Elsafan e Stri. Aronne si prese in moglie Elisabetta, figlia di Amminadab, sorella di Nacason, e gli partorì Nadab, Abiu, Eleazaro e Itamar. Figli di Core: Assir, Elana e Abiasaf. Queste sono le famiglie dei Coraiti. Eleazaro, figlio di Aronne, si prese in moglie una delle figlie di Putiel e gli partorì Fineas. Questi sono i capi dei casati dei Leviti secondo le loro famiglie. Proprio ad Aronne e a Mosè il Signore disse di far uscire i figli di Israele dalla terra d'Egitto secondo le loro schiere. Furono essi a parlare al Faraone, re d'Egitto, per far uscire i figli di Israele dall'Egitto. Sono Mosè ed Aronne. Il giorno in cui il Signore parlò a Mosè in terra d'Egitto, il Signore disse a Mosè: «Io sono il Signore. Di al Faraone, re d'Egitto, tutto quello che io ti dico». Mosè disse davanti al Signore: «Ecco, io sono di parola impacciata, e come mi potrebbe ascoltare il Faraone?»

aveva colpito il fiume. Il Signore disse a Mosè: «Entra dal Faraone e digli: così ha detto il Signore: manda via il mio popolo perché mi serva. E se tu rifiuti di mandarlo via, ecco, io colpisco tutti i tuoi confini con delle rane. Il fiume pullulerà di rane, saliranno e verranno nella tua casa, nella camera dove riposi e sul tuo letto, nella casa dei tuoi servi e tra il tuo popolo, nei tuoi forni e nelle tue madie. Contro di te, contro il tuo popolo e contro tutti i tuoi servi saliranno le rane». Il Signore disse a Mosè: «Di ad Aronne: stendi la tua mano con il tuo bastone sui fiumi, sui canali e sugli stagni d'Egitto». Aronne stese la sua mano sull'acqua d'Egitto. Le rane salirono e coprirono il paese d'Egitto. E lo stesso fecero i maghi con i loro sortilegi. Fecero salire le rane sul paese d'Egitto. Il Faraone chiamò Mosè ed Aronne e disse: «Pregate il Signore perché allontani le rane da noi e dal mio popolo, e io manderò il popolo a sacrificare al Signore». Mosè disse al Faraone: «Fammi l'onore di comunicarmi quando potrò pregare per te, per i tuoi servi, per il tuo popolo, per far scomparire le rane da te e dalle tue case, e ne restino solo nel fiume». Rispose: «Domani». Rispose: «Secondo la tua parola, perché tu sappia che non c'è nessuno come il Signore nostro Dio. Le rane si allontaneranno da te, dalle tue case, dai tuoi servi, dal tuo popolo. Ne resteranno solo nel fiume». Uscì Mosè con Aronne dal Faraone, e Mosè gridò al Signore riguardo alle rane che aveva mandate al Faraone. Il Signore fece secondo la parola di Mosè. Le rane morirono nelle case, nei cortili e nei campi. Le raccolsero in mucchi e il paese puzzava. Il Faraone vide che c'era sollievo, appesantì il suo cuore e non li ascoltò, come aveva detto il Signore. Il Signore disse a Mosè: «Di ad Aronne: stendi il tuo bastone e batti la polvere del suolo. Ci saranno zanzare in tutto il paese d'Egitto». Essi fecero così. Aronne stese la sua mano con il suo bastone e colpì la polvere del suolo, e ci furono zanzare sugli uomini e sulle bestie. Tutta la polvere del suolo diventò zanzare in tutto il paese d'Egitto. Allo stesso modo fecero i maghi con i loro sortilegi per far uscire le zanzare, ma non poterono, e ci furono zanzare su uomini e bestie. I maghi dissero al Faraone: «Dito di un dio è quello». Ma il cuore del Faraone si indurì e non li ascoltò, come aveva detto il Signore. Il Signore disse a Mosè: «Alzati di buon mattino e mettiti davanti al Faraone, proprio quando esce verso l'acqua, e digli: così ha detto il Signore: manda via il mio popolo perché mi serva. Poiché se tu non mandi via il mio popolo, ecco, manderò su di te, sui tuoi servi, sul tuo popolo e nelle tue case dei mosconi. I mosconi riempiranno le case d'Egitto e anche il suolo su cui stanno. Ma preserverò in quel giorno la terra di Gosen, dove sta il mio popolo, perché non vi siano mosconi, in modo che tu sappia che io sono il Signore in mezzo al paese. Porrò uno scampo tra il mio popolo e il tuo popolo. Questo segno avverrà domani». Il Signore fece così. Vennero in massa i mosconi nella casa del Faraone, nella casa dei suoi servi e in tutta la terra d'Egitto. Il paese fu devastato dai mosconi. Il Faraone chiamò Mosè ed Aronne e disse: «Andate a sacrificare al vostro Dio nel paese. Mosè disse: «Non possiamo certo fare così, poiché quello che noi sacrifichiamo al Signore, nostro Dio, è un abominio per gli egiziani. Ecco, sacrificando ciò che è un abominio per gli egiziani davanti ai loro occhi, non ci lapideranno forse? Per un cammino di 3 giorni andremo nel deserto a sacrificare al Signore, nostro Dio, come ci aveva detto». Il Faraone disse: «Io vi manderò a sacrificare al Signore, vostro Dio, nel deserto. Solo non andate lontano. Pregate per me». Mosè disse: «Ecco, io esco da te e pregherò il Signore. Domani si allontaneranno i mosconi dal Faraone, dai suoi servi, dal suo popolo. Solo che il Faraone non ci prenda più in giro, non lasciando partire il popolo perché possa sacrificare al Signore». Mosè uscì dal Faraone e pregò il Signore. Il Signore fece secondo la parola di Mosè e allontanò i mosconi dal Faraone, dai suoi servi e dal suo popolo. Non ne restò uno. Ma il Faraone appesantì il suo cuore anche questa volta e non mandò via il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Va dal Faraone e digli: così ha detto il Signore, Dio degli Ebrei: manda via il mio popolo perché mi serva, che se tu rifiuti di mandarlo via e li trattieni ancora, ecco, la mano del Signore sarà sul bestiame che tu possiedi in campagna, su cavalli, asini, cammelli, sulle mandrie e il gregge, una peste molto pesante. Il Signore farà una distinzione tra il bestiame che possiede Israele e il bestiame degli egiziani. Niente morirà di quanto appartiene ai figli di Israele». Il Signore fissò il tempo dicendo: «Domani il Signore farà questo nel paese». E il Signore fece questo il giorno seguente. Tutto il bestiame posseduto dagli egiziani morì, mentre delle bestie dei figli di Israele non ne morì una. Il Faraone mandò a vedere, ed ecco, del bestiame di Israele non era morto neppure un capo. Ma il cuore del Faraone si appesantì e non mandò via il popolo. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Prendete per voi a piene mani della fuliggine di fornace e Mosè la getti verso il cielo agli occhi del Faraone. Diventerà polvere su tutto il paese d'Egitto e produrrà sugli uomini e sugli animali delle ulcere con eruzioni di pustole in tutto il paese d'Egitto». Presero dunque della fuliggine di fornace, si tennero davanti al Faraone. Mosè la gettò verso il cielo e diventò ulcera pustolosa con eruzione su uomini e animali. I maghi non poterono stare davanti al Faraone per le ulcere, perché c'erano ulcere sui maghi e su tutti gli egiziani. Ma il Signore indurì il cuore del Faraone e che non li ascoltò, come il Signore aveva detto a Mosè. Il Signore disse a Mosè: «Alzati di buon mattino e mettiti davanti al Faraone e digli: così ha detto il Signore, Dio degli Ebrei: manda via il mio popolo perché mi serva, poiché questa volta io manderò tutti i miei flagelli contro di te, i tuoi servi, il tuo popolo, perché tu sappia che non c'è un altro come me in tutta la terra, che se ti avessi steso la mia mano e avessi colpito te e il tuo popolo con la peste, saresti stato cancellato dalla terra. E invece proprio per questo ti ho tenuto in piedi, per mostrarti la mia forza e perché si parli del mio nome su tutta la terra. E ancora tu ti ergi contro il mio popolo per non mandarlo via. Ecco, domani a quest'ora farò cadere della grandine molto pesante, quale non ci fu mai in Egitto dal giorno della sua fondazione fino ad ora. E adesso manda al sicuro il bestiame che possiedi e tutto ciò che hai nella campagna. Su tutti gli uomini e le bestie che si troveranno nella campagna e non saranno stati raccolti in casa, cadrà la grandine e moriranno. Chi tra i servi del Faraone temeva la parola del Signore, fece scampare in gran fretta nelle case i propri servi e il proprio bestiame. Chi non diede retta alla parola del Signore, lasciò nella campagna i propri servi e il proprio bestiame. Il Signore disse a Mosè: «Stendi la tua mano verso il cielo. Ci sarà grandine in tutto il paese d'Egitto, sugli uomini, sugli animali e su tutta l'erba della campagna nel paese d'Egitto». Mosè stese il suo bastone verso il cielo e il Signore diede tuoni e grandine, con fuoco che guizzò sulla terra, e il Signore fece cadere grandine sul paese d'Egitto. Vi furono grandine e lampi tra la grandine molto pesante, quale non c'era stata in tutto il paese d'Egitto da quando era diventato nazione. La grandine colpì in tutto il paese d'Egitto tutto quello che c'era nella campagna, dall'uomo all'animale. La grandine colpì tutta l'erba del campo e spezzò tutti gli alberi della campagna. Solo nella terra di Gosen, dove c'erano i figli di Israele, non ci fu grandine. Il Faraone mandò a chiamare Mosè ed Aronne e disse loro: «Questa volta ho peccato. Il Signore è giusto, io e il mio popolo siamo colpevoli. Pregate il Signore. Ci sono stati troppi tuoni di Dio e grandine. Vi manderò via e non resterete più». Gli disse Mosè: «Quando uscirò dalla città, stenderò la mia palma verso il Signore. I tuoni cesseranno e non ci sarà più grandine, perché sappia che del Signore è la terra. Ma io so che tu e i tuoi servi non temerete ancora il Signore Dio». Il lino e l'orzo furono colpiti, perché l'orzo aveva la spiga e il lino era in fiore. Il grano e la spelta non furono colpiti, perché sono tardivi. Mosè uscì dal Faraone e dalla città, stese le sue palme verso il Signore, e cessarono i tuoni e la grandine, e la pioggia non cadde più sulla terra. Il Faraone vide che era cessata la pioggia, la grandine e i tuoni, e continuò a peccare. Appesantì il suo cuore, lui e i suoi servi. Il cuore del Faraone si indurì, e non mandò via i figli di Israele, come il Signore aveva detto per mezzo di Mosè. Il Signore disse a Mosè: «Va dal Faraone, perché sono io che ho appesantito il suo cuore e il cuore dei suoi servi, perché io possa compiere questi miei segni in mezzo a lui, e tu possa raccontare a tuo figlio e al figlio di tuo figlio come io ho preso in giro l'Egitto con i miei segni che ho fatto in mezzo a loro, e sappiate che io sono il Signore». Mosè con Aronne andò dal Faraone e gli dissero: «Così ha detto il Signore, Dio degli Ebrei: fino a quando ti rifiuterai di umiliarti davanti a me? Manda via il mio popolo perché mi serva. Poiché se non vuoi mandar via il mio popolo, ecco, io farò venire domani delle cavallette nel tuo territorio. Copriranno la faccia della terra e non si potrà più vedere la terra. Mangeranno il resto di quello che è scampato, rimasto a voi dopo la grandine. Mangeranno ogni albero che cresce nella campagna. Riempiranno le tue case, le case dei tuoi servi e le case di tutto l'Egitto. Ciò che non videro i tuoi padri e i padri dei tuoi padri dal giorno in cui furono su questo suolo fino a questo giorno». Poi si voltò e uscì dal faraone. I servi del faraone gli dissero: «Fino a quando costui sarà per noi una trappola? Manda via questa gente, che servano il Signore, loro Dio. Non sai ancora che l'Egitto è perduto?» Si fece venire Mosè con Aronne dal faraone. Disse loro: «Andate a servire il Signore vostro Dio. Ma chi sono quelli che se ne vanno?» Mosè disse: «Andremo con i nostri giovani e i nostri anziani. Andremo con i nostri figli e le nostre figlie, con il nostro gregge e il nostro armento, perché è per noi una festa del Signore.» Disse loro: «Che il Signore sia con voi, come è vero che io voglio mandar via voi e i vostri piccoli. Vedete come il male è davanti al vostro volto. No, andate voi, uomini, a servire il Signore, poiché è quello che chiedete.» E li cacciarono via dalla presenza del faraone. Il Signore disse a Mosè: «Stendi la tua mano sul paese d'Egitto per le cavallette. Salgano sul paese d'Egitto e mangino ogni erba della terra, tutto quello che ha lasciato la grandine.» Mosè stese il suo bastone sul paese d'Egitto, e il Signore diresse un vento dell'est sul paese tutto quel giorno e tutta la notte. Venne il mattino, e il vento dell'est aveva portato le cavallette. Le cavallette salirono su tutto il paese d'Egitto e si posarono su tutto il territorio d'Egitto in gran quantità, cosicché prima non c'erano state tante cavallette come dopo non ci saranno più. Coprirono la superficie di tutto il paese e oscurarono la terra. Mangiarono tutta l'erba della terra, ogni frutto dell'albero lasciato dalla grandine. Niente di verde restò sugli alberi e dell'erba del campo in tutto il paese d'Egitto. Il faraone si affrettò a chiamare Mosè ed Aronne e disse: «Ho peccato contro il Signore vostro Dio e contro di voi. Ma ora ti prego, perdona il mio peccato almeno questa volta, e pregate il Signore vostro Dio che soltanto allontani da me questa morte.» Egli uscì dal faraone e pregò il Signore. Il Signore cambiò la direzione del vento e lo fece soffiare dal mare molto forte. Esso portò via le cavallette e le trascinò verso il mare delle canne. Non restò una cavalletta in tutto il territorio d'Egitto. Ma il Signore indurì il cuore del faraone e non mandò via i figli di Israele. Il Signore disse a Mosè: «Stendi la tua mano verso il cielo. Ci sarà il buio sul paese d'Egitto, un buio da poterlo palpare.» Mosè stese la sua mano verso il cielo e ci fu buio cupo in tutto il paese d'Egitto per 3 giorni. Nessuno vide il proprio fratello e nessuno si alzò in piedi per 3 giorni, ma tutti i figli di Israele avevano luce dove risiedevano. Il faraone chiamò Mosè e disse: «Andate a servire il Signore. Solo restino il vostro gregge e il vostro armento. Anche i vostri piccoli possono andare con voi.» Mosè disse: «Anche tu ci darai in mano sacrifici e olocausti per offrirli al Signore nostro Dio. Anche i nostri greggi partiranno con noi. Non ne resterà un'unghia, perché da quello prenderemo le vittime per servire il Signore nostro Dio. E noi non sappiamo con che cosa servire il Signore finché non arriveremo laggiù.» Il Signore indurì il cuore del faraone e non volle mandarli via. Il faraone gli disse: «Va via da me, sta attento a non vedere più il mio volto, perché il giorno in cui vedrai il mio volto morirai.» Mosè disse: «Hai detto bene, non vedrò più il tuo volto.» Il Signore disse a Mosè: «Ancora una piaga farò venire sul Faraone e sull'Egitto. Dopodiché vi manderà via di qui, e quando vi manderà via, vi caccerà definitivamente di qui. Di dunque agli orecchi del popolo: ogni uomo al suo vicino e ogni donna alla sua vicina chieda oggetti d'argento e oggetti d'oro». Il Signore concesse grazia al popolo agli occhi degli egiziani. Anche Mosè era un uomo molto grande in terra d'Egitto agli occhi dei servi del Faraone e del popolo. Mosè disse: «Così ha detto il Signore: a metà della notte io uscirò in mezzo all'Egitto, e morirà ogni primogenito in terra d'Egitto, dal primogenito del Faraone che siede sul suo trono, fino al primogenito della serva che sta dietro alla mola, e ogni primogenito del bestiame. Ci sarà un grande grido in tutto il paese d'Egitto, come non c'era mai stato e come non ci sarà. Ma contro i figli di Israele neppure un cane aguzzerà la sua lingua, dall'uomo alla bestia, perché sappiate che il Signore fa distinzione tra Egitto e Israele. Allora tutti quei tuoi servi scenderanno da me, mi adoreranno dicendo: esci tu e tutto il popolo che ti segue. Allora uscirò». E uscì dal Faraone infiammato di collera. Il Signore aveva infatti detto a Mosè: «Il Faraone non vi ascolterà affinché i miei prodigi siano numerosi in terra d'Egitto». Mosè ed Aronne fecero tutti quei prodigi davanti al Faraone, ma il Signore indurì il cuore del Faraone, che non mandò via i figli di Israele dal suo paese. Il Signore disse a Mosè ed Aronne nel paese d'Egitto: «Questo mese per voi sarà in testa ai mesi. Per voi sarà il primo tra i mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele dicendo: il 10 di questo mese ognuno prenda per sé un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia è poco numerosa per consumare un agnello, si prenderà chi abita più vicino alla propria casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete la quantità di agnello che ognuno può mangiare. Sarà un agnello integro, maschio, di un anno, e lo prenderete dalle pecore o dalle capre. Lo conserverete presso di voi fino al 14° giorno di questo mese, e tutta l'assemblea della comunità di Israele lo sgozzerà tra le due sere. Prenderà poi del sangue e lo metterà sui due stipiti e sull'architrave di quelle case dove lo si mangerà. In quella notte mangerà la carne arrostita al fuoco, mangerà azzimi con erbe amare. Non mangiatene però cruda o cotta nell'acqua, ma solo arrostita al fuoco, con la testa, le zampe e gli intestini. Non ne farete avanzare per il mattino, e quello che sarà rimasto al mattino lo brucerete nel fuoco. Così lo mangerete, con i vostri fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte attraverserò il paese d'Egitto e colpirò ogni primogenito in terra d'Egitto, dall'uomo alla bestia, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto, io, il Signore. E il sangue sarà per voi un segno sulle case nelle quali siete. Vedrò il sangue e vi oltrepasserò, e non ci sarà per voi un flagello del distruttore quando colpirò il paese d'Egitto. Quel giorno sarà per voi un memoriale, e lo festeggerete come festa del Signore. Nelle vostre generazioni lo festeggerete come prescrizione perenne. Per 7 giorni mangerete azimi. Nel primo giorno farete sparire il lievito dalle vostre case, perché chiunque mangerà del lievitato, dal primo al 7° giorno, quella persona sarà recisa da Israele. Nel primo giorno avrete una convocazione sacra, e anche nel 7° giorno avrete una convocazione sacra. Non si farà nessun lavoro, solo quello che si dovrà mangiare da ognuno, quello solo sarà fatto. Osserverete gli azimi, perché proprio in questo giorno ho fatto uscire le vostre schiere dal paese d'Egitto. Osserverete questo giorno come prescrizione perenne per le vostre generazioni. Nel primo mese, il 14° giorno del mese, alla sera, mangerete azimi fino al 21° giorno del mese, alla sera. Per 7 giorni non si troverà lievito nelle vostre case, perché chiunque mangerà del lievitato, quella persona sarà recisa dalla comunità di Israele, immigrato o nativo del paese. Non mangerete nessun genere di lievitato. Ovunque abiterete, mangerete azimi. Mosè chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro: «Tirate fuori e prendete un animale del gregge per le vostre famiglie e immolate la Pasqua. Poi prenderete un mazzo di issopo, lo intingerete nel sangue che è nel catino e spruzzerete l'architrave e i 2 stipiti con il sangue che è nel catino. E nessuno di voi uscirà dalla porta di casa fino al mattino. Il Signore passerà per colpire l'Egitto. Vedrà il sangue che è sull'architrave e sui 2 stipiti, passerà oltre la porta e non farà entrare il distruttore nelle vostre case per colpire. Osserverete questo come una prescrizione per te e i tuoi figli per sempre. Quando entrerete nella terra che il Signore vi darà, come ho detto, osserverete questo rito. E quando i vostri figli vi diranno: che cos'è questo rito? Direte: è il sacrificio della Pasqua del Signore, che passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto, quando colpì l'Egitto e risparmiò le nostre case. Il popolo si inginocchiò e adorò. I figli di Israele se ne andarono e fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aronne. Così fecero. A metà della notte, il Signore colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul suo trono, fino al primogenito del prigioniero che è in carcere, e tutti i primogeniti degli animali. Il faraone si alzò di notte, lui, tutti i suoi servi e tutto l'Egitto, e ci fu un grande grido nell'Egitto, perché non c'era casa dove non ci fosse un morto. E chiamò Mosè ed Aronne di notte e disse: «Alzatevi ed uscite dal mezzo del mio popolo, voi e i figli di Israele, e andate a servire il Signore secondo quanto avete detto. Prendete anche il vostro gregge e il vostro armento, come avete detto, andate e benedite anche me». Gli egiziani fecero forza sul popolo per mandarli via in fretta dal paese, perché dicevano: «Moriamo tutti quanti». Il popolo portò via la sua pasta prima che lievitasse, con la loro madia avvolta nelle loro vesti sulle loro spalle. I figli di Israele fecero come aveva detto Mosè e chiesero agli egiziani oggetti d'argento, oggetti d'oro e vestiti. Il Signore fece trovare grazia al popolo agli occhi degli egiziani, che accolsero le loro domande e spogliarono gli egiziani. I figli di Israele partirono da Ramses verso Succot in 600.000 a piedi, solo uomini, senza contare i figli. Anche una gran turba salì con loro, greggi e armenti, una gran quantità di bestiame. E fecero cuocere la pasta che avevano portato via dall'Egitto, schiacciate azime, poiché non avevano lievito. Li avevano infatti scacciati dall'Egitto e non avevano potuto attardarsi, non si erano fatte neppure le provviste di viaggio. Il soggiorno dei figli di Israele in Egitto fu di 430 anni. Alla fine dei 430 anni, proprio in quel giorno, tutte le schiere del Signore uscirono dalla terra d'Egitto. Una notte di veglia fu per il Signore quando li fece uscire dalla terra d'Egitto. Questa deve essere una notte di veglia in onore del Signore per tutti i figli di Israele nelle loro generazioni. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: questa è la prescrizione della Pasqua. Nessun straniero ne mangerà. Ma ogni schiavo acquistato con denaro, dopo averlo circonciso, potrà mangiarne. L'avventizio e il mercenario non ne mangeranno. Si mangerà in una sola casa. Non si porterà la carne fuori di casa. Non gli si spezzerà nessun osso. Tutta la comunità di Israele la celebrerà. Se un forestiero dimorante presso di te vuol celebrare la Pasqua del Signore, si circoncida ogni suo maschio e allora si avvicini per celebrarla e sarà come un nativo del paese. Ma nessun incirconciso ne potrà mangiare. Ci sarà una sola legge per il nativo e per lo straniero che risiede in mezzo a voi. I figli di Israele fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aronne. Fecero così. Proprio in quel giorno il Signore fece uscire i figli di Israele dalla terra d'Egitto secondo le loro schiere. Il Signore parlò a Mosè dicendo: consacrami ogni primogenito che apre il ventre tra i figli di Israele. Uomo e animale sono miei. Mosè disse al popolo: ricordati di questo giorno nel quale siete usciti dall'Egitto, da una casa di schiavitù, perché con mano forte il Signore vi ha fatto uscire di là. Non si mangerà del lievitato. Oggi voi uscite nel mese di Abib. Quando il Signore ti avrà condotto nella terra del Cananeo, dell'Ittita, dell'Amorreo, dell'Eveo e del Gebuseo, che ha giurato ai tuoi padri di darti, terra dove scorre latte e miele, farai tale rito in questo mese. Per 7 giorni mangerai azimi, e nel 7° giorno ci sarà una festa per il Signore. Azimi si mangerà per 7 giorni, e non si vedrà presso di te del lievitato, né si vedrà presso di te del lievito in tutto il tuo territorio. In quel giorno ti esprimerai così con tuo figlio: è per quello che il Signore mi ha fatto quando uscii dall'Egitto. E sarà per te un segno sulla tua mano e un ricordo tra i tuoi occhi, perché la legge del Signore sia nella tua bocca, poiché con mano forte il Signore ti ha fatto uscire d'Egitto. Osserverai questa prescrizione nel tempo stabilito, di anno in anno. Quando il Signore ti avrà condotto nel paese del Cananeo, come l'ha giurato a te e ai tuoi padri, e te l'avrà dato, riserverai per il Signore ogni essere che apre il ventre e ogni primo parto dell'animale che avrai.

egli gridò al Signore, che gli mostrò un legno. Lo gettò nell'acqua e l'acqua diventò dolce. Là il Signore gli impose un decreto e un giudizio. Là lo mise alla prova e disse: «Se ascolterai la voce del Signore, tuo Dio, e agirai rettamente ai suoi occhi, se presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutti i suoi decreti, non ti infliggerò nessuno dei flagelli che ho inflitto all'Egitto, perché io sono il Signore che ti cura». Giunsero a Elim, dove ci sono 12 sorgenti d'acqua e 70 palme. Vi si accamparono presso l'acqua. Partirono da Elim, e tutta la comunità dei figli di Israele arrivò nel deserto di Sin, che è tra Elim e il Sinai, il 15° giorno del secondo mese da quando erano usciti dal paese d'Egitto. Tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè ed Aronne nel deserto. I figli di Israele dissero loro: «Perché non siamo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando stavamo presso la pentola di carne, mangiavamo a sazietà? Perché ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine?» Il Signore disse a Mosè: «Ecco, faccio piovere su di voi dal cielo del pane. Il popolo uscirà e raccoglierà ogni giorno la razione del giorno. Voglio infatti provarlo se cammina o no nella mia legge. E il sesto giorno, quando prepareranno quello che avranno portato, ci sarà il doppio di quanto avevano raccolto giorno per giorno». Mosè ed Aronne dissero a tutti i figli di Israele: «Alla sera saprete che è il Signore che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto, e al mattino vedrete la gloria del Signore, poiché ha sentito le vostre mormorazioni contro di Lui. Noi che cosa siamo, perché mormoriate contro di noi?» Mosè disse: «Il Signore vi darà alla sera carne da mangiare e al mattino pane a sazietà, poiché il Signore ha ascoltato le vostre mormorazioni contro di Lui. Noi, infatti, che cosa siamo? Non contro di noi sono le vostre mormorazioni, ma contro il Signore». Mosè disse ad Aronne: «Di a tutta la comunità dei figli di Israele: avvicinatevi davanti al Signore, poiché ha udito le vostre mormorazioni». E mentre Aronne parlava a tutta la comunità dei figli di Israele, si voltarono verso il deserto, ed ecco che la gloria del Signore apparve nella nube. Il Signore disse a Mosè: «Ho udito le mormorazioni dei figli di Israele. Parla loro così: tra le due sere mangerete carne e al mattino vi sazierete di pane. Saprete che io sono il Signore, vostro Dio». Alla sera salirono le quaglie e coprirono l'accampamento, e al mattino ci fu uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Lo strato di rugiada se ne andò, ed ecco sulla superficie del deserto qualcosa di fine, granuloso, minuto come la brina sulla terra. I figli di Israele videro e si dissero l'un l'altro: «Cos'è quello?» perché non sapevano che cosa era. Mosè disse loro: «Quello è il pane che il Signore vi ha dato da mangiare. Ecco quello che il Signore vi ordina: raccoglietene ognuno per quanto ne mangia, un omer a testa. Prendetene secondo il numero di quanti siete, ognuno nella propria tenda». I figli di Israele fecero così, e raccolsero chi molto, chi poco. misuravano a omer, e non ne aveva troppo chi aveva raccolto molto, e non ne mancava a chi aveva raccolto poco. Ognuno aveva raccolto secondo quanto mangiava. Mosè disse loro: «Nessuno ne avanzi per domani». Essi non ascoltarono Mosè e alcuni ne presero di più per l'indomani. Sorsero dei vermi e si corruppe. Mosè si adirò contro di loro. Ne raccoglievano ogni mattina, ognuno secondo quanto ne mangiava. Quando il sole scaldava, si scioglieva. Il sesto giorno raccolsero il doppio del pane, 2 omer ognuno, e tutti i capi della comunità lo dissero a Mosè. Egli disse loro: «È quello che ha detto il Signore. Domani è giorno di riposo, un sabato santo per il Signore. Quello che dovete cuocere, cuocetelo, e quello che dovete bollire, bollitelo, e quello che resta in più, riponetelo per conservarlo fino a domani». Lo riposero fino all'indomani, come aveva ordinato Mosè, e non si corruppe, e non ci furono vermi. Mosè disse: «Mangiatelo oggi, perché oggi è sabato per il Signore. Oggi non ne troverete all'aperto. Per 6 giorni ne raccoglierete. Nel 7° giorno, sabato, non ce ne sarà». Alcuni del popolo uscirono il 7° giorno per raccogliere, ma non ne trovarono. Il Signore disse a Mosè: «Fino a quando rifiuterete di osservare i miei precetti e le mie leggi? Vedete, il Signore vi ha dato il sabato, perciò vi dà al 6° giorno il pane per 2 giorni. Ognuno dimori a casa sua e nessuno esca dal suo luogo al 7° giorno». Il popolo riposò nel 7° giorno. La casa di Israele lo chiamò manna. Era come seme di coriandolo bianco, con il gusto di focaccia di miele. Mosè disse: «Ecco quello che ha ordinato il Signore. Riempitene 1 omer da conservare per le vostre generazioni, perché vedano il pane che vi ho fatto mangiare nel deserto, quando vi ho fatto uscire dalla terra d'Egitto». Mosè disse ad Aronne: «Prendi 1 vaso, riempilo di 1 omer di manna e riponilo davanti al Signore per conservarlo per le vostre generazioni». Come il Signore aveva ordinato a Mosè, Aronne lo pose davanti alla testimonianza per la conservazione. I figli di Israele mangiarono la manna per 40 anni, fino a quando giunsero alla terra abitata. Mangiarono la manna fino a quando giunsero al confine della terra di Canaan. L'omer è 1/10 dell'efa. Tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin per le loro tappe, secondo la parola del Signore, e si accamparono a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò con Mosè e disse: «Dacci dell'acqua perché possiamo bere». Mosè disse loro: «Perché discutete con me? Perché tentate il Signore?» Là il popolo era assetato d'acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire me, i miei figli e il mio bestiame di sete?» Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò a questo popolo? Ancora un po' e mi lapiderà». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te degli anziani di Israele. Prendi nella tua mano il tuo bastone con il quale hai colpito il fiume e va. Ecco, io sto davanti a te, là sulla roccia, sull'Oreb. Colpirai la roccia e ne uscirà acqua, il popolo berrà. Così fece Mosè agli occhi degli anziani di Israele. Chiamò quel luogo Massa e Meriba per la contesa dei figli di Israele e perché tentarono il Signore dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi o no?» Venne Amalek e combatté contro Israele a Refidim. Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi degli uomini ed esci a combattere Amalek. Domani io mi terrò ritto in cima alla collina con in mano il bastone di Dio». Giosuè fece come Mosè gli aveva detto per combattere Amalek. Mosè, Aronne e Cur salirono in cima alla collina. Quando Mosè alzava la sua mano, Israele era più forte, e quando abbassava la sua mano, era più forte Amalek. Ma le mani di Mosè pesavano. Allora presero una pietra e la misero sotto di lui. Vi si sedette sopra, mentre Aronne e Cur sostenevano le sue mani, uno da una parte e l'altro dall'altra. E le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Giosuè finì Amalek e il suo popolo a fil di spada. Il Signore disse a Mosè: «Scrivi questo sul libro come ricordo e dichiara alle orecchie di Giosuè che io cancellerò il ricordo di Amalek da sotto il sole». Allora Mosè costruì un altare, lo chiamò «Il Signore è il mio segnale» e disse: «Mano al vessillo del Signore, guerra per il Signore contro Amalek di generazione in generazione». Jetro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, intese tutto quello che Dio aveva fatto a Mosè e ad Israele, suo popolo, come il Signore aveva fatto uscire Israele dall'Egitto. Allora Jetro prese Zippora, moglie di Mosè, che prima egli aveva rinviata, con i suoi due figli. Il nome di uno era Gerson, poiché aveva detto: «Sono stato ospite in terra straniera». E il nome dell'altro Eliezer, perché il Dio di mio padre è venuto in mio aiuto e mi ha liberato dalla spada del faraone. Jetro, suocero di Mosè, venne da Mosè con la moglie e i figli di lui nel deserto dove era accampato al monte di Dio. E fece dire a Mosè: «Sono io, Jetro, tuo suocero, che vengo a te con tua moglie e i tuoi due figli». Mosè uscì incontro a suo suocero, si prosternò e lo baciò. Si interrogarono vicendevolmente sulla salute ed entrarono nella tenda. Mosè raccontò a suo suocero tutto quello che il Signore aveva fatto al Faraone e all'Egitto per causa di Israele, tutte le tribolazioni che avevano trovato nel cammino, dalle quali il Signore li aveva salvati. Jetro si rallegrò per tutto il bene che il Signore aveva fatto a Israele per averlo salvato dalla mano dell'Egitto. Jetro disse: «Benedetto sia il Signore che vi ha salvato dalla mano dell'Egitto e dalla mano del Faraone. Egli ha salvato il popolo dalla mano dell'Egitto. Ora so che il Signore è il più grande di tutti gli dèi per quanto ha fatto agli egiziani che si comportarono con arroganza contro gli ebrei». Poi Jetro, suocero di Mosè, offrì un olocausto e un sacrificio di comunione in onore di Dio e venne Aronne con tutti gli anziani di Israele a mangiare il cibo con il suocero di Mosè davanti a Dio. Il giorno dopo Mosè si sedette per giudicare il popolo e il popolo stette con Mosè dal mattino alla sera. Il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva al popolo e disse: Che cosa è quello che fai al popolo? Perché siedi tu solo e tutto il popolo sta con te dal mattino alla sera? Mosè disse al suo suocero: Il popolo viene da me per consultare Dio. Quando c'è qualcosa tra di loro, vengono da me e io giudico tra l'uno e l'altro. Faccio conoscere i decreti di Dio e le sue leggi. Il suocero di Mosè gli disse: Non è bene quello che fai. Ti esaurirai sia tu che questo popolo che è con te, perché è troppo pesante per te. Non puoi farlo da solo. Ora ascoltami. Ti consiglio e Dio sia con te. Tu starai al posto del popolo davanti a Dio e porta tu a Dio le loro questioni. Informali dei decreti e delle leggi e fa loro conoscere il cammino da percorrere e quello che dovranno fare. Invece prenderai tra tutto il popolo uomini di virtù che temono Dio, uomini veritieri che odiano il guadagno, e li porrai su di loro come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Giudicheranno il popolo per tutto il tempo. Ogni questione importante la porteranno a te, ma giudicheranno essi ogni questione piccola. Così alleggerisci te ed essi ti sollevano. Se farai questo, e che Dio te lo ordini, potrai durarla, e anche tutto questo popolo rientrerà presso di sé in pace. Mosè ascoltò la voce del suo suocero e fece quello che aveva detto. Scelse uomini di virtù da tutto Israele e li costituì come capi sul popolo, capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Essi giudicavano il popolo per tutto il tempo. Le questioni importanti le portavano a Mosè, mentre essi stessi giudicavano tutte le questioni piccole. Poi Mosè congedò suo suocero, che se ne andò nella sua terra. Il terzo mese dall'uscita dei figli di Israele dalla terra d'Egitto, in quel giorno arrivarono al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò di fronte al monte. Mosè salì verso Dio. Il Signore lo chiamò dalla montagna dicendo: Così parlerai alla casa di Giacobbe e annuncerai ai figli di Israele: Voi avete visto quello che ho fatto all'Egitto. Vi ho portato su ali di aquile e vi ho condotto da me. E ora, se ascoltate la mia voce e osservate la mia alleanza, sarete mia proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le cose che dirai ai figli di Israele. Mosè andò a convocare gli anziani del popolo ed espose loro tutte quelle cose che il Signore gli aveva ordinato. Tutto il popolo insieme rispose dicendo: Tutto quello che il Signore ha detto, noi lo faremo. Mosè riportò le parole del popolo al Signore. Il Signore disse a Mosè: Ecco, io vengo da te nella densità della nube, perché il popolo oda quando io parlerò e creda per sempre anche a te. Mosè riferì le parole del popolo al Signore. Il Signore disse a Mosè: Va dal popolo e falli santificare oggi e domani. Lavino i loro vestiti e siano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà agli occhi di tutto il popolo sul monte Sinai. Fissa i confini tutti intorno per il popolo dicendo: Guardatevi dal salire la montagna e dal toccarne le estremità. Chiunque toccherà la montagna morirà. Nessuna mano lo toccherà, ma sarà lapidato o trafitto, sia animale che uomo. Non vivrà. Quando suonerà il corno, allora saliranno sulla montagna. Mosè scese dalla montagna verso il popolo, santificò il popolo ed essi lavarono i loro vestiti. Poi disse al popolo: «Siate pronti per il terzo giorno, non avvicinatevi a donna». Il terzo giorno, al mattino, ci furono tuoni, lampi, una nube densa sulla montagna e un suono molto potente di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento si spaventò. Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio e si tennero ai piedi della montagna. Il monte Sinai era tutto fumante, perché il Signore era sceso su di esso nel fuoco. Il suo fumo saliva come il fumo di un forno, e tutto il monte tremava molto. Il suono del corno andava sempre più rafforzandosi. Mosè parlava e Dio gli rispondeva nel tuono. Il Signore scese sul monte Sinai, sulla cima del monte, e chiamò Mosè sulla cima del monte. Mosè salì. Il Signore disse a Mosè: «Scendi ad avvertire il popolo che non irrompa in direzione del Signore per vederlo. Molti di loro cadrebbero. Anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si santifichino, perché il Signore non si scateni contro di loro». Mosè disse al Signore: «Il popolo non può salire sulla montagna del Sinai, perché tu ci hai avvertito dicendo: metti dei confini alla montagna e rendila sacra». Il Signore gli disse: «Va, scendi, poi sali tu ed Aronne con te, ma i sacerdoti ed il popolo non irrompano per salire verso il Signore, perché non si scateni contro di loro». Mosè scese dal popolo e parlò. Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, da una casa di schiavitù. Non avrai altri dei davanti a me. Non ti farai scultura e alcuna immagine, né di quello che è su in cielo, né di quello che è quaggiù sulla terra, né di quello che è in acqua sottoterra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri sui figli fino alla terza e quarta generazione per quelli che mi odiano, ma che fa grazia a migliaia per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai inutilmente il nome del Signore tuo Dio, perché egli non lascia impunito chi pronuncia il suo nome inutilmente. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo servo e la tua serva, il tuo bestiame, il forestiero che sta dentro alle tue porte, perché in 6 giorni il Signore fece il cielo, la terra, il mare e tutto quello che è in essi,

uomini santi. Non mangerete carne sbranata alla campagna. La getterete al cane. Non solleverai falsi rumori. Non metterai la tua mano con il cattivo per essere un testimone perverso. Non seguirai i molti nel male e non deporrai in una contesa giudiziaria per pendere verso i molti deviando. Non favorirai il debole nel suo processo. Se incontrerai un bue del tuo nemico o un suo asino disperso, glielo riporterai. Se vedrai un asino di chi ti odia giacere sotto il suo peso, astieniti dall'abbandonarlo, lo slegherai con lui. Non farai deviare il giudizio del tuo povero nel suo processo. Starai lontano da parola falsa. Non ucciderai l'innocente e il giusto, perché non dichiaro giusto il colpevole. Non prenderai regali, perché il regalo acceca chi vede chiaro e perverte le parole dei giusti. Non opprimerai lo straniero. Voi conoscete la vita dello straniero, perché foste stranieri in terra d'Egitto. Per 6 anni seminerai la tua terra e raccoglierai il suo prodotto, ma al 7° non la coltiverai e la lascerai riposare. Mangeranno i poveri del tuo popolo e le bestie selvatiche mangeranno ciò che resta. Così farai alla tua vigna e al tuo olivo. Per 6 giorni farai il tuo lavoro, ma il 7° giorno smetterai, perché riposi il tuo bue e il tuo asino, e prenda fiato il figlio della tua serva e lo straniero. Osserverete tutto quello che vi ho detto. Non farete menzione del nome di altri dei. Non si senta sulla tua bocca. Per 3 volte all'anno mi festeggerai. Osserverai la festa degli azimi. Per 7 giorni mangerai azimi, come ti ho ordinato, nella data fissata del mese di Abib, perché in quello sei uscito dall'Egitto. Nessuno si presenti davanti a me a mani vuote. Osserverai la festa della mietitura, le primizie dei tuoi lavori, di quello che semini nel campo. La festa del raccolto al termine dell'anno, quando raccoglierai i frutti dei tuoi lavori dal campo. 3 volte all'anno ogni tuo maschio si presenterà davanti al Signore Dio. Non sacrificherai sangue del mio sacrificio sul lievitato, e il grasso della vittima per la mia festa non passerà la notte fino al mattino. Porterai alla casa del Signore, tuo Dio, il meglio delle primizie del tuo suolo. Non cuocerai un capretto nel latte di sua madre. Ecco, io mando un angelo davanti a te per vegliare su di te nel cammino e farti entrare nel luogo che ho preparato. Sii attento davanti a lui, ascolta la sua voce, non ribellarti a lui, perché non sopporterà la vostra trasgressione, poiché il mio nome è in lui. Se tu ascolti la sua voce e farai tutto quello che dirò, sarò nemico dei tuoi nemici e avversario dei tuoi avversari. Poiché il mio angelo andrà davanti a te e ti porterà dall'Amorreo, dall'Ittita, dal Perizzita, dal Cananeo, dall'Eveo, dal Jebuseo, e lo sterminerò. Non ti prostrerai ai loro dei, non li servirai e non farai secondo le loro opere, ma demolirai e spezzerai le loro stele. Servirete il Signore vostro Dio. Egli benedirà il tuo pane e la tua acqua e allontanerà la malattia da te. Non ci sarà nella tua terra donna che abortisce o sterile,

Farai due assi per gli angoli della dimora nella parte posteriore. Saranno appaiate perfettamente in basso e saranno perfettamente insieme in cima al primo anello. Così sarà per ambedue. Saranno ai due angoli. Ci saranno 8 assi e le loro basi d'argento saranno 16. Due basi sotto un asse e due sotto un'altra asse. Farai delle traverse in legno d'acacia, 5 per le assi di un lato della dimora, 5 traverse per le assi del secondo lato della dimora e 5 traverse per le assi del lato posteriore della dimora, verso occidente. La traversa di centro in mezzo alle assi attraverserà da un'estremità all'altra. Ricoprirai d'oro le assi e farai d'oro i loro anelli che riceveranno le traverse e ricoprirai d'oro le traverse. Innalzerai la dimora secondo il modo che ti è stato mostrato sul monte. Farai un velo di porpora viola, di porpora rossa, di scarlatto e di bisso ritorto. Sarà ornato artisticamente di cherubini. Lo porrai su 4 colonne d'acacia ricoperte d'oro, con gli uncini d'oro alle 4 basi d'argento. Porrai il velo sotto le fibbie, e là, all'interno del velo, introdurrai l'arca della testimonianza. Il velo sarà per voi la separazione tra il santo e il santo dei santi. Porrai il propiziatorio sull'arca della testimonianza nel santo dei santi. Porrai la tavola fuori del velo e il candelabro in faccia alla tavola sul lato della dimora a meridione. Porrai la tavola sul lato settentrionale. Farai all'ingresso della tenda una cortina di porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto con lavoro di ricamatore. Farai per la cortina 5 colonne d'acacia, le rivestirai d'oro. I loro uncini saranno d'oro e fonderai per esse 5 basi di bronzo. Farai l'altare in legno d'acacia, lungo 5 cubiti e largo 5 cubiti. L'altare sarà quadrato. Farai i suoi corni ai suoi 4 angoli e faranno un tutt'uno con esso. Lo ricoprirai di bronzo. Farai i suoi recipienti per la cenere, le sue palette, i suoi catini, le sue forcelle e i suoi braceri. Farai tutti gli oggetti in bronzo. Gli farai una graticola di bronzo, fatta come una rete, e sulla rete farai 4 anelli di bronzo alle sue 4 estremità. La porrai sotto la cornice dell'altare, in basso, e la rete arriverà fino alla metà dell'altare. Farai delle stanghe in legno d'acacia per l'altare e le ricoprirai di bronzo. Le sue stanghe si introdurranno negli anelli e le stanghe saranno ai due lati dell'altare per sollevarlo. Lo farai vuoto all'interno di tavole, come ti è stato mostrato sul monte. Farai il recinto della dimora. Nella direzione sud a meridione il recinto avrà tendaggi di bisso ritorto della lunghezza di 100 cubiti su un lato. Ci saranno 20 colonne e le loro 20 basi di bronzo. Gli uncini delle colonne e le loro aste trasversali saranno d'argento. Così per il lato settentrionale. Tendaggi di 100 cubiti di lunghezza, le sue 20 colonne con le sue 20 basi di bronzo, gli uncini delle colonne e le aste trasversali d'argento. La larghezza del recinto verso occidente avrà 50 cubiti di tendaggi con le sue 10 colonne e le sue 10 basi.

Il Signore colpì il popolo perché avevano fatto il vitello fuso da Aronne. Il Signore disse a Mosè: «Va, parti di qui, tu e il popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto, verso la terra che ho giurato ad Abramo, Isacco e Giacobbe, dicendo: la darò al tuo seme. Manderò davanti a te un angelo e caccerò via il Cananeo, l'Amorreo, l'Ittita, il Perizzita, l'Eveo e il Jebuseo. Va verso la terra dove scorre latte e miele. Non sarò certo io a salire in mezzo a te, perché sei un popolo duro di nuca e non ti finisca lungo il cammino». Il popolo udì quella parola cattiva. Si rattristarono e nessuno si mise addosso un ornamento. Il Signore disse a Mosè: «Di ai figli di Israele: voi siete un popolo di dura cervice. Se per un solo istante io venissi in mezzo a voi, vi sterminerei. Ora togliti i tuoi ornamenti, poi saprò quello che dovrò farti». I figli di Israele si spogliarono dei loro ornamenti dal monte Horeb. Mosè ad ogni tappa prendeva la tenda e la piantava fuori dell'accampamento, lontano dall'accampamento, e l'aveva chiamata tenda del convegno. Chiunque ricercava il Signore usciva verso la tenda del convegno che era fuori dell'accampamento. Quando Mosè usciva verso la tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno stava all'entrata della propria tenda e seguiva Mosè con lo sguardo finché entrava nella tenda. Quando Mosè entrava nella tenda, la colonna di nube scendeva e stava all'ingresso della tenda, ed egli parlava a Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nube che stava all'entrata della tenda. Tutto il popolo si alzava e ognuno si prostrava all'ingresso della propria tenda. Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con il suo vicino. Poi tornava all'accampamento. Il suo servo Giosuè, giovane figlio di Nun, non si allontanava dall'interno della tenda. Mosè disse al Signore: «Vedi, tu mi dici, fa salire questo popolo, ma non mi fai sapere chi manderai con me. Ma tu mi hai detto, ti conosco per nome e hai anche trovato grazia ai miei occhi. Allora, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, fammi conoscere la tua via, cosicché io ti conosca e trovi grazia ai tuoi occhi. Vedi, questa nazione è tuo popolo». Rispose: «Il mio volto camminerà con voi e ti farò riposare». Gli disse: «Se non è il tuo volto a camminare con noi, non farci salire di qui. In che cosa si saprebbe qui che ho trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo popolo? Non è forse perché tu camminerai con noi e ci distingueremo, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra?» Il Signore disse a Mosè: «Anche questa cosa che mi hai detto farò, perché hai trovato grazia ai miei occhi e ti conosco per nome». Gli disse: «Fammi dunque vedere la tua gloria». Rispose: «Io farò passare tutto il mio splendore davanti a te e pronuncerò davanti a te il nome del Signore. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà». E aggiunse: «Non puoi vedere il mio volto perché l'uomo non può vedermi e vivere». Il Signore disse: «Ecco un luogo vicino a me, ti terrai sulla roccia. Quando passerà la mia gloria, ti metterò nella fenditura della roccia e ti coprirò con la mia palma fino a quando sarò passato. Poi ritirerò la mia palma e mi vedrai di spalla, ma il mio volto non si vedrà». Il Signore disse a Mosè: «Scolpisciti due tavole di pietra

chiunque era portato dal proprio cuore ad affrontare l'opera per eseguirla. Presero dalla presenza di Mosè ogni prelievo che avevano portato i figli di Israele per l'opera del servizio del santuario per eseguirla. Gli israeliti continuavano a portare loro ogni mattina offerte volontarie. Allora vennero tutti i saggi che facevano opera del santuario, ognuno dalla propria opera che stavano facendo, e dissero a Mosè: «Il popolo porta più del necessario per l'opera che il Signore ha ordinato di eseguire». Mosè allora fece proclamare nell'accampamento: «Uomo e donna non facciano più lavoro per la colletta del santuario». E il popolo cessò di portare. Il materiale era sufficiente per tutta l'opera da eseguire e ne avanzava. Ogni saggio di cuore tra quelli che lavoravano fece la dimora. Bezalel la fece con 10 teli di bisso ritorto, porpora viola, porpora rossa, scarlatto. Fece pure dei cherubini lavorati artisticamente. La lunghezza di un telo, 28 cubiti. La larghezza, 4 cubiti per un telo. Una misura unica per tutti i teli. Si unirono 5 teli l'uno all'altro e 5 altri teli si unirono l'uno all'altro. Fece cordoni di porpora viola sull'orlo del primo telo all'estremità delle giunzioni. Così fece all'orlo del telo che è all'estremità della seconda giunzione. Fece 50 cordoni al primo telo e 50 cordoni all'estremità del telo che è nella seconda giunzione, mentre i cordoni corrispondevano l'uno all'altro. Fece 50 fibbie d'oro e unì i teli l'uno all'altro con le fibbie. E la dimora fu un tutt'uno. Fece dei teli in pelo di capra per la tenda sopra la dimora. Ne fece 11. Lunghezza di un telo, 30 cubiti. 4 cubiti la larghezza di un telo. Una misura unica per gli 11 teli. Si unirono 5 teli da una parte e 6 teli dall'altra e fece 50 cordoni sull'orlo del telo all'estremità delle giunzioni e 50 cordoni sull'orlo del telo della seconda giunzione. Fece 50 fibbie di bronzo per unire la tenda perché fosse un tutt'uno. Fece una copertura alla tenda di pelli di montone tinte di rosso e una copertura di pelli conciate al di sopra. Fece per la dimora le assi in legno d'acacia, verticali. La lunghezza di un asse, 10 cubiti, e la larghezza, 1,5 cubiti. Ogni asse aveva 2 sostegni appaiati l'uno all'altro. Così fece per tutte le assi della dimora. Fece le assi per la dimora, 20 assi verso sud, a mezzogiorno. Fece 40 basi d'argento sotto le 20 assi, 2 basi sotto un asse per i suoi 2 sostegni e 2 basi sotto l'altra asse per i suoi 2 sostegni. Per il secondo lato della dimora, verso nord, fece 20 assi con le loro 40 basi d'argento, 2 basi sotto un asse e 2 basi sotto l'altra asse. Per la parte posteriore della dimora, verso ovest, fece 6 assi e fece 2 assi per gli angoli della dimora nella parte posteriore. Furono appaiate perfettamente in basso e furono perfettamente insieme in cima al primo anello. Così fece per ambedue per formare i 2 angoli. Vi erano 8 assi con le loro basi d'argento, 16 basi. 2 basi sotto un asse e 2 basi sotto un'altra asse. Fece delle traverse in legno d'acacia, 5 per le assi di un lato della dimora, 5 traverse per le assi del secondo lato della dimora e 5 traverse per le assi del lato posteriore della dimora, verso occidente. Fece la traversa di centro che passava in mezzo alle assi da una estremità all'altra. Ricoprì d'oro le assi

Rivestirai Aronne con le vesti sacre, lo ungerai, lo consacrerai e sarà mio sacerdote. Farai avvicinare i suoi figli e li rivestirai con tuniche. Li ungerai come hai unto il loro padre e saranno miei sacerdoti. La loro unzione sarà per essi come un sacerdozio perenne per le loro generazioni. Mosè fece secondo tutto quello che il Signore gli aveva ordinato. Il primo mese del secondo anno, il primo del mese, fu eretta la dimora. Mosè eresse la dimora, pose le sue basi, mise le sue assi, pose le sue traverse, innalzò le sue colonne. Distese la tenda sopra la dimora e vi pose sopra la copertura, in alto, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Prese e pose la testimonianza nell'arca, mise le stanghe all'arca, pose il coperchio sull'arca, portò l'arca nella dimora, mise il velo della cortina e coprì l'arca della testimonianza, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Mise la tavola nella tenda del convegno, sul fianco della dimora, a settentrione, all'esterno del velo. Dispose su di essa il pane, in focacce sovrapposte, davanti al Signore, come egli aveva ordinato a Mosè. Pose il candelabro nella tenda del convegno, di fronte alla tavola, sul fianco della dimora, a sud. Vi collocò sopra le lampade di fronte al Signore, come egli aveva ordinato a Mosè. Mise l'altare d'oro nella tenda del convegno, davanti al velo, e vi fece fumare sopra l'incenso profumato, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Mise la cortina all'ingresso della dimora. Pose l'altare dell'olocausto all'ingresso della dimora della tenda del convegno e offrì su di esso l'olocausto e l'oblazione, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Pose la vasca tra la tenda del convegno e l'altare e vi mise l'acqua per l'abluzione. Con quest'acqua Mosè, Aronne e i suoi figli si lavavano le mani e i piedi. Quando entravano nella tenda del convegno e si avvicinavano all'altare, si lavavano, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Innalzò il recinto intorno alla dimora e all'altare e mise la cortina alla porta del recinto. Così Mosè terminò il lavoro. La nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la dimora. Mosè non poté entrare nella tenda del convegno perché la nube vi dimorava sopra e la gloria del Signore riempiva la dimora. Quando la nube si alzava al di sopra della dimora, i figli di Israele si spostavano in tutte le loro tappe e se la nube non si alzava, non si spostavano finché non si fosse alzata. Perché di giorno la nube del Signore era sopra la dimora e di notte vi era sopra un fuoco agli occhi di tutta la casa di Israele in tutte le sue tappe.